giri bisogna ascoltare. È un gran piatto meridionale, ma è natura, il suono, il silenzio. I step off the train. I'm walking down your street again, past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. Now you disappeared somewhere, got a space, found some better things, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh. Like the deserts miss the rain, and could you be dead? Always were two steps ahead of everyone. Walk behind while you would run. Look up at your house. I can almost hear you shout down to me where I always used to be. And I miss you. Like deserts miss the rain, and I miss you. Like deserts miss the rain. Back on the train, ask why did I come again? Can I confess? I've been hanging around your old dress. Years have proved too often nothing since you moved. You're long gone, but I can't move on, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain, and I miss you. Yeah. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Step off the train, I'm walking down your street again, past your door, I guess you don't live there anymore, it's years since you've been there.

Seccano agli occhi, manco le colle. Tipo che quando sto sopra mi vengono bolli. Sopra le bolle, sopra le palle. Cerco della cover, sopra le palle. Quando sto sopra mi sento mutante. Quando sto bianco voglio solo pacchio. Matto, frate, chiaro, Sion, chiaro, chiaro, Sion, chiaro, Sion, chiaro, chiaro, Sion, chiaro. Frate, avrei voglia di rappare le stesse frate, ma non ci riesco. Chiamo chi lo presto, scendo e registro tutto quanto con il cazzo complesso. Calza, yeah, calza, wow, calza, yeah, calza, calza, calza, calza, yeah. Cuore molle, palle mosce, cuore molle, palle mosce. Esco mi vedo il cuore anche stanotte. Esco mi fico sta fossa di zozzo. Cuore molle, palle mosce. Mi piglio il crash test in sulla fronte. Mi ripiglio quando gli alberi cacciano strozzo. Anziché delle foglie. Tipo sto molle, tipo sto molle, tipo sto molle. Chiassa, wow. See the breaking glass in the underpass. See the breaking glass in the underpass. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette melts on your burning flesh. You can see your reflection in the luminescent dash. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. A tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love before you die. On warm leatherette. On warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Join the car crash set. Quale tutto un dramma, ricco di trama, mantra, Mahabharata, Dharamsala. Cazzo non ci sto zitto, che ci sto a provare da quando è nato Platone, cioè nel 300 avanti Cristo. Roberto Zucco sei lesto, mo stai fresco, mantra molesto, mantra molesto, non so se mi spiego. Ti sciacco la bocca col mio presto e me ne frego, stasera fan festa solo ad un fiesto. Rinnego adesso che esco lento col fiasco in mano all'ora del vestro. Ma chi te lo ha chiesto? Esca per l'escatologia del batte la pesca, non fare il modesto. Non c'è scopo, né moto al luogo, né motore immobile, non mi spreco, darti fuoco, non sono mica un soprammobile per una città inutile che non fa testo, come l'impresa dei mille danni il resto. Serrate le fila Italia Sound System per far passare l'innominabile col contabile abile ad unire l'Italia, Uber, Alles, Magic, che come gioca sano, abbi dubbi, to be or not to be, abbozzala tanto è tutto un paese di furbi. Allora muzzo zozzo tutto a porno nel mondo dell'arte. No, perché c'è qualcuno che da sinistra le è andato dall'altra parte. Please, non mescoliamo le carte, Uzio Malaparte. È come se dalle piagge andassi ad abitare a Campo di Marte. Teatro tutto in allarme, armi in pugno e tirate dritto alla carne. Sangue, Baton, Luberti, Langer, Roberto Zucco, sei un grande, sul tetto in mutande. Alza su le casse e muovi le masse, non restare mai nell'impasse, Roberto Zucco, cucco di brutto, spacco tutto, Roberto Zucco. Thank you.

the talking in the room. I hear the rocket tail. I do hope he is was fail. Papa, she have you any role? Yes, sir, yes, sir, free by four. One for the master and one for the little boy.